Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera a tutte, benvenute alla nostra 98esima trasmissione. Oggi vi teniamo compagnia io, Annalisa e naturalmente la mia compagna preferita Pina, che ha rinunciato a festeggiare il suo onomastico per stare qui con me e con voi. E vi ricordo che potete telefonare qui in radio allo 06 49 1750 o potete chiamarci tutti i mercoledì in redazione dalle 21 in poi allo 06 6864 201 oppure potete inviarci una mail all'indirizzo, al nostro nuovo indirizzo che è contatti@clrbp.it per commenti, per farci conoscere di più di voi, per dire cosa ne pensate della nostra trasmissione. E poi naturalmente ci aspettiamo i vostri amati, sospirati, trillini, in modo da farci capire che non siamo sole ma che ci siete anche voi ad ascoltarci. Oh, stasera vogliamo ancora parlarvi di immaginaria ed in particolare del bellissimo documentario dal titolo Out, The Making of a Revolutionary, ovvero Fuori, la nascita di una rivoluzionaria. Out infatti parla di Laura Whitehorn, che è una lesbica dichiarata, che nel 1985 fu giudicata colpevole di attentato dinamitardo al Capitol Building di Washington e accusata di cospirare attraverso mezzi violenti e legali contro il governo degli Stati Uniti d'America. È la storia quindi di questa donna coraggiosa e delle battaglie del nostro tempo contro le ingiustizie di classe, di razza e di genere. Laura, cresciuta in ambiente liberale, diventa una radicale di sinistra nei tumultuosi anni 60. Condannata a 20 anni di prigione, ne ha trascorsi 14 in carcere, ma prima di cominciare partiamo con un brano a tema che è This is a Rebel Song di Sinéad O'Connor. Prima papera della serata, ecco che è partita la scena di O'Connor, scusate. Ciao, buonasera, sono Pina e come diceva poc'anzi Annalisa, alla proiezione. Allora, ecco, scusate. Vabbè, Annalisa stasera sta proprio fuori per fuori, l'abbiamo appurata sta cosa. Vabbè, allora come vi dicevo sono Pina e proprio come diceva Annalisa poc'anzi che stasera vi faremo sentire il brano che abbiamo registrato sull'intervista fatta a Sonia De Vries, perché proprio alla proiezione di questo documentario, no? Ha fatto seguito un interessante dibattito dal titolo L'ingiustizia giustizia, le detenute politiche negli Stati Uniti. Il dibattito tra l'altro si è tenuto proprio alla presenza di una delle due registe, Sonia De Vries. Ve ne faremo chiaramente ascoltare uno spezzone, la parte più saliente, però prima di mandare lo spezzone volevo solo leggervi una frase che Laura dice nel documentario. Penso che i prigionieri politici, per arrivare a rischiare la propria vita, debbano anzi avere un sogno così vivido nella loro mente da essere comparabile agli agi che lasceranno quando moriranno o andranno in prigione o vivranno per sempre in clandestinità. Non piaccio con una domanda diretta a Sonia. Chiedo banalmente come mai hai pensato di realizzare un documentario con questo oggetto. Okay, thank you all for coming to the discussion. I always find this to be the most interesting to hear people's opinions and own experience as well. So I was involved for a very long time in support work around political prisoners, and I was visiting a Puerto Rican political prisoner in California who has now been released, and I got to know Laura Whitehorn. And basically a friend, Rhonda Collins, who's a co-director, and I really wanted to make a film about a political prisoner because of the lack of acknowledgement and knowledge about political prisoners in the U.S. Even the fact that there are political prisoners in the U.S. is not widely known. Prima di tutto vorrei ringraziarvi per essere qui, trovo che questi momenti di scambio siano più interessanti, quelli che apprezzo di più. E ho avuto l'idea di fare il film proprio perché la situazione dei prigionieri politici negli Stati Uniti non è molto nota, molti non sanno chi ci sono, ce ne sono tanti, ed è cominciato proprio il lavoro di sostegno, di supporto per una prigioniera politica che poi è stata rilasciata, e quindi è cominciato così. We also specifically wanted to look at the role of lesbians in the radical left, and to look at the process in which a person decides to take the actions that Laura did, to look at, you know, to try to make it more personal, to look at one person's life and how they got involved and went from, you know, getting petitions signed to bombing the Capitol building, a long process. Beh, e poi volevamo esaminare la storia di una persona, in particolare Laura Whitehorn, e poi anche la posizione delle lesbiche in ambito politico per la sinistra radicale. E volevamo anche avvicinarci più alla vita di una persona, appunto in questo caso Laura Whitehorn, e studiare un po' qual è il percorso, il processo che porta una donna in questo caso a far circolare petizioni e all'inizio per poi mettere una bomba nel Capitolio. And we are also interested in just broadening the discussion within the left about political activism and different ways of resisting inoltre anche allargare il dibattito nell'ambito della sinistra sulle sull'attivismo e la resistenza. You know, it's very interesting showing this. This is the first time that I've been at a public showing since September 11th. Questa è la prima volta che sono a una proiezione pubblica dall'11 di settembre. And I'm just noticing that because of the increased repression in the US, I feel more careful with my words. Mi sono resa conto che a causa della repressione crescente che si vive negli Stati Uniti, sono molto più attenta alle mie parole, a quello che dico. And I just think that you know, like I was saying before, unfortunately, I think that this climate that we're in, so many changes have been made within the U.S. and in other places that are taking us backward, that are more repression. And, you know, I just found out, I didn't even know this, that on the radio now in the U.S., they have an ad that says, if you suspect anyone, your neighbor, your friends, your family, your teachers, your coworkers, report them to the FBI, and we will, you know, respond to every call. And in fact, there have been people getting visits from the FBI just for saying they disagreed with the bombing of Afghanistan. Mi rendo conto che il clima è veramente cambiato. Viviamo in un momento in cui la repressione è molto più forte, i cambiamenti non solo negli Stati Uniti ma anche in altri paesi immagino sono molto molto forti. In effetti ho appena saputo che da un po' di tempo c'è questo annuncio che passa alla radio continuamente che dice se avete dei sospetti che riguardano un vostro vicino, un collega di lavoro, un insegnante, una persona che incontrate, insomma nella vostra vita, chiamate l'FBI e vi garantiremo che che noi rispondiamo ad ogni chiamata. E ci sono già stati dei casi di persone a cui l'FBI ha bussato la porta, solo per aver detto che erano contrarie alla politica americana, quello che sta avvenendo adesso. So it's wonderful to have such an enthusiastic audience and to see people responding in such a positive way to this. È molto rincuorante avere un pubblico che risponde molto e che risponde nella maniera giusta, positiva e che ti sente l'affetto. I just want to add one more thing, you know. I think now it's so easy to point to anything, any liberation struggle, any kind of movement for change and say, okay, they're terrorists. So, you know, Colombia, okay, they have connections with Al-Qaeda. So, you know, we're going to intervene more militarily there. And, you know, there is no focus at all on state terrorism, which, in my opinion, the United States is one of the biggest perpetrators of terrorism in the world. And the reason behind things like September 11th. Devo dire che adesso, un'ultima cosa, è molto facile puntare il dito di fronte a movimenti di liberazione, di lotta, si dice ecco sono dei terroristi e vengono etichettati così. In Colombia allora benissimo, hanno dei collegamenti con Al-Qaeda, veri o presunti, andiamo lì e entriamo con l'esercito. E non si parla assolutamente del terrorismo di Stato, che secondo me è la forza preponderante negli Stati Uniti, dice la regista, ed è la causa, una delle cause di quello che è avvenuto l'11 settembre, ed è anche il terrorismo di Stato americano, quello che porta poi il terrorismo nel mondo. Anyway, this is just the context in which we're showing the movie, but I would like to hear, you know, comments, questions. Questo poi è il contesto del film, però sarei molto contenta di avere le vostre riflessioni, domande. Have you got the address of our to write to contact for Laura? Yes, I do. Laura Whitehorn, she's living in New York now, And she's continuing to do activism around the political prisoners. She's not in very good health because of her time in prison. But she's just, you know, out there doing the work. And she would love to hear from people, you know. Sì, ce l'ho, le avrebbe molto piacere, le piace sentire, avere contatti con le persone. Adesso vive a New York, è sempre molto, molto attiva nel movimento, anche se non è in ottima salute, proprio con le conseguenze della carcerazione prolungata. And also one of her comrades, Marilyn Buck, is still incarcerated, has 80 years, will not ever get out legally, you know, so... And all the other political prisoners, it would, you know, they love to hear from people on the outside so that they can be more involved. Sì, poi c'è la sua compagna Marilyn Buck, una delle sue compagne che sta ancora in prigione perché è stata condannata a 80 anni, di sicuro lei non uscirà di prigione legalmente. E quindi sicuramente apprezzerebbero molto dei contatti con l'esterno, quindi, perché proprio questo è il modo per sentirsi più vicini. Ascoltando il bellissimo brano di John Betts, Years to You, e grazie, sei un trillino, e continuate a telefonarci. Diretti, hanno deciso di prendere le armi e così via, erano gruppi solo di donne, cioè ha fatto una scelta separatista all'interno della lotta armata? interesting question. No, within that group, there was actually, that particular group, the Resistance Conspiracy, there was a man, Alan Berkman. But it explained it briefly in the film, but it just goes by so fast. His case was separated for various reasons, one being his health situation. So he was able to get out earlier because of the way that they did the case. But no, it wasn't a women only, although certainly was happy on the dikes. Il gruppo non era un gruppo solo di donne, c'era anche un uomo che è Alan Berkman, che appare brevemente nel video. In effetti il suo caso è stato trattato separatamente in ambito giudiziario perché lui era molto malato e quindi è uscito anche molto prima, però dice nel gruppo la presenza Dyke era molto forte. Lesbica. In the movie you tell about the ban for political prisoners to organize, for prisoners to organize. What was the excuse for that ban? Facevo tutto, però era la domanda riguarda, nel video si dice che a un certo punto viene proibito ai prigionieri politici di organizzarsi, allora voleva sapere qual è la motivazione e l'aspetto legale di questa proibizione. Ok, the ban was on all prisoner initiated organizing was banned. So what that means is that the prison will organize things. But, you know, they have made so many changes in the last 10, 15 years that are just horrible. And they really don't have to give any kind of justification, and they usually don't. Clearly, the prisoner organizations are very empowering to prisoners. They connect prisoners. When the prison initiates it, they're more able to separate the prisoners, you know, and get them to trust the guards, the administration, rather than each other. So they're... No, la proibizione riguarda tutte le organizzazioni, cioè tutti i gruppi, i raggruppamenti iniziati e avviati dai prigionieri, di tutti i tipi, tutti i capi, non i politici in generale, tutti. E invece che vuol dire che solo le attività organizzate dagli istituti penitenziari sono permesse. Però il che vuol dire che le organizzazioni avviate dai prigionieri danno molto potere, anche molta partecipazione, gli altri invece, quelle iniziate dalle prigioni, tendono a separare i carcerati, i prigionieri, e anche a qualche modo a alimentare la fiducia nei confronti del potere costituito, cioè le guardie e così via. Però negli ultimi 10-15 anni i cambiamenti sono stati moltissimi, tutti per il peggio, e non è che debbano poi giustificare niente, decidono e basta. You know, and the things they've been doing, for instance, on September 11th, all of the political prisoners were taken and put into isolation on that day. And some of them were told, it's because you're terrorists. And most of them were released within 3 weeks, 4 weeks. It definitely wasn't a very legal thing to do. There was no real justification. One of the prisoners, Richard Williams, was held for 5 months in total isolation, and they said, it's because of your politics. They said it flat out, you know, and it's people don't know that about the U.S. a lot of the time. I mean, I think people here actually know it more than people in the U.S. Per esempio, una conseguenza dell'11 settembre è che immediatamente dopo l'11 settembre tutti i prigionieri politici nelle carceri americane sono stati messi in isolamento, tutti. Non è un'azione molto legale, con giustificazione legale, comunque l'hanno fatta. gran parte di essi sono rimasti in isolamento per 3-4 mesi, no, scusate, settimane, quando invece uno di questi prigionieri, Richard Williams, 5 mesi, e quando ha chiesto perché, gli ha detto per la tua politica. E in effetti negli Stati Uniti non si sa molto, anzi penso che la gente sappia molte più cose di quello che avviene negli Stati Uniti di quanto non sappiano in America. Under what circumstances has it been possible to show this movie publicly in the United States? Sì, quindi se il film è stato mostrato negli Stati Uniti, quando, in che circostanze, in che contesti? Well, it came out in July 2 years ago, 99 or 2000, I can't remember. 2000. So we did get to show it a lot. Couldn't get it on TV, no way. This year, it's been shown less, and I don't know whether that's because people are more hesitant to show it in the U.S., not in Europe. It's quite a lot of not showing here. Or it's been out for 2 years already. I think it's probably a little bit of both. Beh, il film è uscito 2 anni fa, nel luglio, e ha girato molto negli Stati Uniti, in TV no, non ha trovato spazio in televisione. Adesso, quest'ultimo anno, gira meno, non so se perché negli Stati Uniti la gente è più esitante a mostrarlo o perché ormai ha già girato un po', già 2 anni, e quindi sì, interessa meno. Comunque, probabilmente entrambe le ragioni. I will say though that Laura's been using the film, which has been great. She's been taking it around to universities and high schools, and they show it, and then she's able to speak with the young people and students, and that is just wonderful. And it's been a wonderful experience for her too. Laura Whitehorn si ha girato molto anche col film, quindi lei è andata all'università e nelle scuole superiori proprio mostrando il film e poi con il dibattito con gli studenti, ed è stato molto bello, molto importante per lei. Uno dei passi più difficili del film, almeno per donne come noi, per donne come noi che hanno un determinato tipo di impegno politico, no? Perché l'impegno politico ha diversi fronti, è stato il passo che ha spinto Laura Whitehorn alla, in ogni caso, l'utilizzo della violenza, seppure come sai, no? Credo c'è una parte del femminismo che rifiuta l'utilizzo della violenza, e Laura nel film lo dà come un dato di fatto, come una conseguenza inevitabile, no? Qual è il tuo che pensi? What do I think of Laura's reasoning, or what do I think of chose to do the film about Laura was because we felt that we wouldn't have to compromise our own politics in any way. It was very exciting to us to work with her. Not that we agree on everything, but personally, I've always felt that, especially as a person who lives in the United States and a white person, that I certainly cannot determine, you know, what other oppressed people choose as their means of struggle. I've always felt that very strongly, and always disagreed with a blanket feminist statement that, you know, violence cannot be used. So I can see that very clearly. I've always had questions about, you know, I just don't really want to get into the issue right now of using violence in the U.S. I think that as a movement, as a political movement, we need to look at all means of struggle and really discuss them and figure out, you know, and also not allow people to be separated when they choose strategies that we don't necessarily agree with. Because, I'm sorry. Insomma, è una domanda difficile. Di sicuro devo, cioè, la scelta di fare un film sull'ora era proprio perché eravamo sicure che non, ero sicura che non avrei dovuto compromettere niente, cioè il compromesso non ci sarebbe stato, anche se in realtà non sempre abbiamo concordato su tutto rispetto con Laura, però sicuramente lavorare con lei voleva dire nessun compromesso rispetto alla, alla lotta, all'approccio politico. C'è da dire che come americana che vive negli Stati Uniti e bianca, il mio punto di vista è sempre stato quello di che noi non possiamo determinare la scelta della lotta da parte di altri gruppi oppressi, questo è sicuro. D'altra parte non ho mai molto accettato quella, diciamo, l'affermazione così omnicomprensiva, come chiama lei, a coperta, del femminista no alla violenza in generale, sempre e comunque. È un po' difficile parlarne, ma penso che come, posso dire che come movimento politico noi dovremmo esaminare tutti i mezzi di lotta, tutti quelli che sono, parlarne e non escludere i gruppi o coloro che fanno in base alle loro scelte in termini di lotta politica. Yeah, one thing that I saw when I first became involved in the support around political prisoners, and I was also involved in the work around Central America, was that a lot of leftists would say, would not support the political prisoners' rights even because they had used violence. And to me that is just completely wrong. You know, even if you don't agree, they're part of our movement. And we can't let our government, which is what we're resisting, determine who's part of our movement, you know, because they say those people are terrorists. We need to determine who's part of our movement. Beh, in base alla mia esperienza di lavoro di attivista anche con in America centrale, devo dire che ci sono parte della sinistra che si rifiuta anche di aiutare i prigionieri politici in base al fatto che hanno usato la violenza. Invece, cioè, per questa è la giustificazione. Io invece, anche se non concordiamo sulle misure, le attività, gli approcci di lotta politica, fanno sempre parte del nostro movimento i prigionieri politici, comunque. E non dobbiamo permettere al Stato, che è poi l'entità contro cui noi ci battiamo come attivisti, di dirci chi fa parte del nostro movimento e chi no, dicendo, discriminando, dicendo beh, questi sono terroristi, allora no, non c'entrano, dobbiamo essere noi a decidere. Don't you know we're talking about a revolution sounds? Don't you know talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know talking about a revolution sounds fresh air. Poor people gonna rise up and take what's there. Come nelle migliori famiglie, Annalisa mi ripassa la linea. Che dire, dopo che abbiamo ascoltato l'intervista a Sonia De Vries, un commento da parte nostra è proprio obbligatorio. Infatti questo film, oltre a provocare una profonda commozione, ci ha scosso le coscienze, rendendoci ancora più vulnerabili rispetto a certi temi, proprio perché di una certa attualità anche in Italia. E quindi non siamo riusciti ad esimerci dal paragonare il sistema italiano a quello americano e purtroppo renderci conto delle molte similitudini. Quindi ringraziamo queste due coraggiose registe che ci hanno regalato una bellissima pagina di verità che ancora una volta mette a nudo l'America, il suo sistema, la sua fragilità. Questa civilissima America che a parole fonda le sue regole sulla libertà e la democrazia, nei fatti poi dimostra di essere repressiva e più che mai antidemocratica. Questa è ancora l'America della pena di morte, dei soprusi sui neri, della paura dei comunisti, delle multinazionali che antepongono gli interessi economici agli interessi della collettività, che cura i ricchi e lascia morire i poveri, della persuasione delle armi per imporre la propria supremazia, dell'indifferenza verso gli stupri e violenze su donne e bambini, che arma le vittime che a loro volta diventano carnefici. Bella questa America, così libera, così democratica, così capitalista, così potente, così bombarola, così forcaiola, così modello, così lontana ma sempre più vicina. Vicina proprio perché l'Italia, pur in un ruolo di subalternità, ha sempre strizzato l'occhio alla civilissima America. La emula, la prende ad esempio, la enfatizza, la esalta. Questa nostra civilissima Italia, che utilizza dei metodi non molto dissimili da quelli americani, specialmente nei confronti delle detenute e dei detenuti politici. L'Italia che usa la repressione piuttosto che conoscere ed approfondire le ragioni degli altri. L'Italia che dopo l'assassinio d'Antona ha ritenuto opportuno rimettere in isolamento le detenute e i detenuti politici. L'Italia che utilizza sistemi terroristici per combattere il terrorismo. L'Italia che usa occhio per occhio, dente per dente. L'Italia che ordina di sparare al G8 e che provoca per giustificare. L'Italia del governo terrorista e che si pone sullo stesso piano. L'Italia che ignora i bisogni della gente, dei lavoratori, l'Italia degli imbonitori, che ha la sua massima espressione nel capo del governo, l'Italia dei telequiz e dei quiz show, l'Italia che preferisce non pensare ma tirare a campare. Insomma, questa nostra bella Italia, quando si sveglierà dal lungo sonno? Stai a vedere che aspetta il principe come Biancaneve, almeno fosse una principessa.